Storie italiane. La tigre e i bufali. Tanto tempo fa, nel cuore della foresta, vivevano quattro bufali. Stavano sempre insieme. Erano così uniti che tutti gli altri animali avevano una gran paura di loro. E fra tutti gli animali c'era anche una tigre. Ogni volta che decideva di attaccare, li vedeva insieme e delusa se ne andava. Oh, come faccio ad attaccarli se stanno sempre insieme? Fa niente. Riproverò domani. Un giorno i quattro amici prepararono un piano. Ascolta, ho sentito dire che l'erba sull'altro prato è molto più gustosa. Perché non andiamo a pranzo lì oggi? Oh sì, dobbiamo andare. Allora perché parliamo? Andiamo! Oh, erba verde! Ho già l'acquolina in bocca! Che magione! Smetterà mai di pensare al cibo? Se ne andarono tutti insieme verso il prato. Mentre camminavano, una volpe li vide arrivare. Era così spaventata che scappò immediatamente. Ma gli amici non l'avevano nemmeno notata. Camminavano allegramente. In breve tempo raggiunsero il prato. Erano tutti molto stanchi per aver camminato tanto. Prima di iniziare a mangiare, uno di loro disse: facciamo una cosa. Lasciamo che il maggiore ci protegga mentre noi mangiamo. Non è giusto. Perché dovrei aspettare ancora? Anch'io ho fame. Tu ci metti più tempo a mangiare. Potrai mangiare dopo di noi e ti proteggeremo. Io non sono il vostro schiavo. Non aspetterò. Mangerò con voi. Ha ragione. Non è giusto lasciarlo qui da solo. Siamo tutti affamati. Perché non aspetti tu? Chi credi di essere? Non puoi mica darci ordini così. Se vi ho tanto infastidito, ve ne andrò subito. Voi mi avete sempre dato ordini. Tu ci dai sempre ordini. Sì, me ne andrò anch'io. Non ho bisogno di nessuno di voi. Allora posso restare per conto mio. Anch'io posso stare per conto mio. Andate via. Erano tutti e quattro molto arrabbiati l'uno con l'altro. Ma non sapevano che la tigre li aveva seguiti fin lì. Da tempo sperava che i quattro litigassero. Questo li aveva fatti dividere. Così lei avrebbe potuto attaccarli. Nascosta ad osservare il tutto, si sentiva felice che il giorno fosse finalmente arrivato. Non posso credere ai miei occhi. Ora posso attaccarli e mangiarli uno a uno. I quattro amici si incamminarono l'uno lontano dall'altro. La tigre li attaccò uno dopo l'altro. Li uccise e li mangiò tutti. Fin quando i quattro bufali erano insieme, nessuno osò mai avvicinarli. Ma avevano litigato ed essersi separati gli costò la loro vite. Come si suol dire, l'unione fa la forza. Ragazzi, questo è il motivo per cui dovete sempre stare uniti. Non si sa mai cosa può accadere. Finché sarete tutti insieme, non vi potrà mai succedere nulla. La vittoria sarà sempre nelle vostre mani. Sì, fata, hai ragione! Ehi, ieri hai litigato con Johnny quando è stato nominato capitano della squadra di calcio. È vero, ma andrò a scusarmi con lui. Così insieme noi vinceremo la partita. Ah, proprio così. Perché? L'unione fa la forza!